Questo protocollo, a mio giudizio, ha due aspetti, diciamo, fondamentali, uno di carattere simbolico e uno di carattere sostanziale. Quello di carattere simbolico è dato al fatto che un'associazione di categoria cerca di fare, si fa promotrice, si fa carico di sensibilizzare, di diffondere una cultura della legalità in un territorio come il nostro, ma che purtroppo, come tutti gli altri territori del nord, laddove c'è mercato, laddove c'è interesse economico, è oggetto di attenzione da parte dell'economia criminale. Quindi questa diffusione culturale per noi, sensibilizzazione, è estremamente importante. Accanto a questo c'è un aspetto sostanziale che riguarda i punti dell'accordo che è stato siglato, che fa riferimento naturalmente all'accordo nazionale firmato dal Ministro Maroni e dalla Presidente Marcegaglia il 10 maggio del 2010 e che ha avuto poi seguito anche con delle linee guida operative e che sostanzialmente vincolano le parti a reciproci impegni, che nella sostanza sono riassumibili in questo. Le aziende che commettono atti criminali o soggiacciono colpevolmente, nel senso che non denunciano situazioni di sottomissione estorsiva, non sono compatibili con l'associazione a Confindustria. E questo riguarda diversi aspetti della legalità. Poi il protocollo prevede uno scambio informativo molto significativo. Ecco, questo è molto importante, questo scambio di informazioni, no? Assolutamente importante, nel senso che poi gli operatori economici come le associazioni di categoria hanno il polso della situazione, hanno la possibilità di raccogliere dati presso tutte le imprese che aderiscono al protocollo e a loro volta fornirle alle prefetture di competenza, in modo che ci sia un database costantemente aggiornato sulla base della quale si possa sempre conoscere chi sta dietro alle imprese. Certo, che certo. Senta Argilo, fuori dai denti, perché lei lo sa che io sono una persona che parla schietto e franco, lei crede che i vostri associati abbiano tutti capito il messaggio straordinariamente importante, per quel che mi riguarda, di questo protocollo? Io sono convinto che la stragrande maggioranza degli associati abbia capito questo messaggio.